slick chick. See, a neat chick. The she's what makes me tick. Mama, clickety click, a slick chick. The hot heels on for the baby blues. Very first time, man oh man, it was a night. Everybody stopped on a dime to look. Even my heart, my heart got a shook. She's my clickety clicker, stitchy. She's Miss Rhythm, she's Miss Rhyme. Oh man, she is mine. I said, I got a stick chick. She's a neat chick. But she what makes me tick. Mama, yeah. Clickety click, a stick chick. Yeah, don't you know she's a slick. Mama, a stick chick. Ah, yeah. Chick. Mama, clickety click, a stick chick. Yeah, I got a crazy little chick. I don't you know she's slick. Ben ritrovati e ben ritrovate a una nuova puntata di Slick Chick. Sempre su Radio Wombat o Wombat Radio, come preferite. Oggi siamo il 15 febbraio, quindi il giorno dopo di San Valentino. Ovviamente immagino che tutti voi avrete, i nostri ascoltatori avranno sicuramente festeggiato San Valentino con il proprio amato, la propria amata, i propri amati, le proprie amate, cani, gatti e tutto quello che volete. E quindi, siccome noi ci teniamo in questa radio a rispettare le tradizioni, le feste importanti, comandate e non comandate, la puntata di oggi di Slick Chick è proprio dedicata a San Valentino. Veramente dedicata a San Valentino, giuro. È stato piuttosto difficile trovare dei pezzi dedicati a questa festività e soprattutto dei pezzi, diciamo, consoni ai nostri toni e ai toni a cui ormai vi ho abituato da qualche mesetto a questa parte. Ma ce l'ho fatta e sono piuttosto soddisfatta, quindi godetevi questa puntata di Slick Chick che spero apprezzerete. Prima di iniziare vi do i social Wombat soliti, i nostri contatti, i luoghi dove trovarci, dove raggiungerci, a partire dal sito dove probabilmente siete, da cui ci state ascoltando, wombat.noblogs.org. Per l'occasione ringraziamo sempre Noblogs, la crew di autistici e inventati. La pagina Twitter, twitter.com/radiowombatfi, la stupida e brutta pagina Facebook, facebook.com/radio-wombat-firenze, e la casella di posta, posta wombat @insiberia.net, a cui come sempre vi ricordo di scriverci e mandarci le vostre considerazioni. Tra l'altro vi ricordo anche che manca una sola settimana precisa, perché oggi è mercoledì e tra una settimana precisa, ovvero mercoledì 22 febbraio, scade il bando che abbiamo indetto per la creazione di un logo per il Wombat. Quindi, insomma, non so, io immagino che avrete già mandato le cose, o se non l'avete fatto ce l'avevate lì per mandarle. Sappiate che non avete più molto tempo, quindi abbandonate tutte le altre cose inutili che stavate facendo, dedicatevi notte e giorno soltanto a noi e al Wombat logo che ci spetta. Mi raccomando, scriveteci e mandateci i vostri disegnetti. Iniziamo dunque con il primo pezzo. In realtà questo è proprio il primo pezzo che mi è venuto in mente parlando di San Valentino. Ce ne sarebbe un altro che vi dico subito, no, non metterò perché la Wombat censura, non approva, cioè la mia autocensura prima di tutto, non approva perché è un pezzo di un gruppo antipatico e quindi poi dopo ne parleremo per bene, vi spiegherò perché. E quello in realtà era il mio vero primo pezzo che mi veniva in mente, ma vabbè, anche questo come, che vi sto per mettere come primo pezzo direi che va benissimo. Beh, non so se voglio anticiparvelo, ma no, io ve lo farei sentire. Secondo me, sentitevelo, preparatevi perché tutta la puntata sarà una puntata romantica, strappalacrime, e quindi mettete da parte i Kleenex, baci perugina, gianduiotti, cioccolatini vari, perché insomma, trattandosi di San Valentino, il tenore sarà quello. Ma vi faccio sentire il primo pezzo, poi dopo ne parliamo. A coma, I know, it's serious. Girlfriend in a coma, I know, it's really serious. There were times when I could have murdered her, but you know I would hate anything. Esatto, it's serious, come questa puntata di San Valentino. Li avrete riconosciuti, spero, erano gli Smiths con Girlfriend in a Coma. L'album Strange Ways, Here We Come del 1987. A parte gli aneddoti che potremmo dire su questo pezzo, sull'album, insomma, io direi che più o meno il testo si commenta da solo e non ce n'è bisogno. Il brano dà il nome al romanzo di Douglas Copland, intitolato appunto Girlfriend in a Coma. Douglas Copland, ve lo ricorderete forse, è lo scrittore e autore di Generazione X e Microservi. Un autore che negli anni 90, fine 90, inizio anni 2000, andava abbastanza per la maggiore. Ah, alcune cose erano anche interessanti, insomma. Douglas Copland, che evidentemente è un grosso fan degli Smiths, di Morrissey, come non dargli torto del resto, prende questo, secondo me, piuttosto geniale e caustico testo e pezzo degli Smiths e intitola così questo libro. Il libro narra la storia di Karen, un'attraente ragazza che una notte del 1979 entra in coma e contemporaneamente dà alla luce una bambina, quando si dice la sfiga, no? Al suo risveglio, 18 anni dopo, si ritrova madre di mezza età, perché è chiaro, a quel punto ormai il tempo era passato, e con tutti i suoi amici già cresciuti, cioè una sfiga allucinante. un po' come insomma i testi degli Smiths ci hanno insegnato. Quindi vabbè, in realtà Douglas Copeland non è l'unico, cioè questo libro non è l'unica citazione che Douglas Copeland fa agli Smiths. Nello stesso libro ci sono vari riferimenti ai testi e ai titoli di altre canzoni degli Smiths. Vabbè, c'è Big Mouth, Straits Again, Hand in Glove, The Queen is Dead. Insomma, diciamo che è un libro un po' tributo, ecco, verrebbe da dire. E basta, questo era quanto per quanto riguarda gli Smiths, Girlfriend in a Coma. L'altro pezzo di cui accennavo prima, che mi sarebbe piaciuto farvi sentire, che effettivamente era la mia prima scelta riguardo a San Valentino, è un pezzo che si intitola Girlfriend's Dead, dei Vandals, che inizia con un motivetto fischiettato che alcuni di voi si ricorderanno. È un pezzo obiettivamente molto divertente, e immaginerete insomma di cosa parla, ma mi faceva schifo onestamente farvi sentire i Vandals, perché i Vandals sono dei personaggi, cioè dei personaggi abbastanza ambiguazzi. Ormai dopo anni si potrebbe dire che non sono neanche più ambiguazzi, sono proprio sicuri delle proprie scelte, però sono scelte sbagliate e quindi eviterei di farveli, cioè di farli passare ai microfoni di Wombat Radio. Infatti, tra le varie cose, tra cui cadute di stile di vario genere, un episodio piuttosto importante è stato nel 2004, quando i Vandals, band, tra l'altro, nata insomma, nel giro del punk, anche dichiaratamente anarchico, americano. Come, penso che queste cose succedano solo in America, spero anche. A un certo punto si sono ritrovati a pensarla in maniera completamente diversa. Tant'è che, appunto, nel 2004 sono andati a suonare a Baghdad in supporto alle truppe americane. Hanno fatto questo fantastico concerto, bellissimo, immagino. Davanti alle truppe americane. Sono stati ovviamente piuttosto criticati e schifati da tutti e hanno risposto essenzialmente: siamo apolitici, non ce ne frega un cazzo, siamo d'accordo con la guerra in Iraq e dobbiamo supportare il nostro paese, la nostra nazione. Hanno fatto subito dopo un tour in Europa dove molte date sono state cancellate in seguito a proteste davanti. Meno male, bene così, vuol dire che c'è un po' di gente intelligente ancora che ragiona. Quindi niente Vandals. E proseguiamo invece con un pezzo di tutt'altro tenore e parecchio più serio, direi, perché il prossimo pezzo è di Bette Davis e si intitola Anti-Love Song, un album omonimo, Bette Davis, del 1973. Bette Davis, se non la conoscete, conoscetela perché è importante, è un personaggio da scoprire se non l'avete ancora scoperta. Una cantante funk, diciamo, e soul, ma tutto ciò è molto riduttivo perché è passata un po' alla storia per aver unito insieme diversi generi e con un certo grado di coraggio e pare che, insomma, è obiettivamente riconosciuta come la madrina della fusion. È nata, è tuttora vivente, è nata nel 1945 a Durham e è nota anche per essere stata la seconda moglie di Miles Davis. E tra l'altro, nel periodo in cui sono stati sposati, anche se il loro matrimonio è durato un anno soltanto, Bette Davis pare lo abbia influenzato non poco, in maniera anche piuttosto profonda. È molto interessante, fra l'altro, vedere le varie notizie che vengono scritte in rete su Bette Davis e la differenza sostanziale con cui se ne parla in Italia e nel resto del mondo, perché in Italia si dà molto peso al fatto che probabilmente è un gossip assolutamente non verificato, che Bette Davis abbia avuto come amante nel periodo in cui era sposata con Miles Davis, Jimi Hendrix. E quindi si dice che il loro matrimonio sia durato solo un anno e che si siano divorziati per colpa di questa storia con Jimi Hendrix. Se si legge la stampa, comunque sia altre fonti non italiane che probabilmente hanno una mentalità appena appena più aperta, in realtà pare che già si capisce che la cosa non è proprio andata così, o meglio, in parte sì, probabilmente Bette Davis e Jimi Hendrix erano piuttosto legati, ma in ogni caso Miles Davis pare che fosse una personcina non proprio simpaticissima, che aveva un temperamento possessivo e violento, cosa che insomma a me farebbe pensare che magari sia quello il vero motivo, no? Comunque sia uno dei tanti. Resta il fatto che Hendrix e Miles Davis restarono amici anche dopo il divorzio, che quindi probabilmente appunto Bette Davis era troppo esuberante, troppo esplosiva per essere contenuta in una relazione monogama con Miles Davis. E la cosa non durò, Hendrix e Miles Davis comunque rimasero amici e i tre in ogni caso continuarono a frequentarsi. E tra l'altro Miles Davis e Jimi Hendrix avevano pianificato la registrazione di un album insieme, che poi è stata, cioè non è successo perché nel frattempo è morto Jimi Hendrix nelle orribili circostanze che tutti ricordiamo. L'influenza di Jimi Hendrix comunque su Miles Davis è abbastanza palese nell'album Beach Blue, che viene considerato come l'apripista dell'era della jazz fusion, e insomma diciamo che tutto ciò influenzò non poco Miles Davis. Ma tornando a Bette Davis invece, che è la protagonista del prossimo pezzo, a causa delle sue visioni molto aperte in fatto di sessualità e rapporti sentimentali e quant'altro, e diciamo in generale di una sua attitudine piuttosto libertaria e libertina, molte delle sue canzoni vennero boicottate dalle stazioni radiofoniche, e a causa, pare, di pressione di diversi gruppi religiosi. Fa pensare il fatto che il pubblico dell'epoca, peraltro, invece non aveva assolutamente problemi con i testi non meno espliciti del resto del funk, che invece era cantato da uomini, perché insomma, se avete presente un po' il funk dell'epoca, gli uomini potevano dire veramente di tutto. Bette Davis no, Bette Davis non era concesso. Quindi ci ascoltiamo invece, noi non censuriamo Bette Davis, ci mancherebbe altro, e quindi ci ascoltiamo Anti-Love Song, che non è uno dei suoi pezzi più entusiasmanti, ma comunque rende piuttosto l'idea del personaggino. No, I don't wanna love you, 'cause I know how you are. That's why I've been staying away from you. That's why I haven't called you, 'cause I know you could possess my body. I know you could make me scrawl. I know you could have me shaking. I know you could have me climbing walls. That's why I don't want to love you. You are sure you say you're right on and you're righteous, but with me I know you'd be right off, 'cause you know I could possess your body too, don't you? You know I could make you crawl, and just as hard as I'd fall for you, boy, well, you know you'd fall for me harder. That's why I don't wanna love you. Cause I know what you do to my heart. You could scorch you just like a hot iron. Leave me burning alone in the dark. 'Cause I know you could make me suffer. I know you could drive me mad. I know you'd just take me in a circle. And when it got real, I know you'd disappear. That's why I ain't gonna love you. Davis, la sua Anti-Love Song, passiamo a un pezzo che non si discosta tanto per certi versi, anche se il suono è completamente diverso. La canzone che vi faccio sentire è di Christy Moore, si intitola No Time for Love. L'album è The Spirit of Freedom del 1986. E il titolo originale in realtà a un certo punto è stato cambiato ed è stato tramutato in No Time for Love, ma il titolo originale è If They Come in the Morning, se arrivano la mattina. Christy Moore, ve lo ricorderete forse, chissà, forse l'ho messo nella prima puntata se non sbaglio, di Slick Chick, è un cantautore irlandese, diciamo il cantautore irlandese per antonomasia, un po' un padre a cui tutti devono qualcosa, e molto politicizzato, un irredentista, possiamo definirlo così, della non tanto della parte, cioè, non dell'ira, perché anzi con l'ira ha avuto un rapporto turbolento a un certo punto soprattutto, però sicuramente un personaggio che ha avuto molte cose da dire sulla indipendenza irlandese, e insomma non si è mai arreso a questo. Christy Moore riprende una storica canzone delle Black Panther, in realtà, che si chiamava proprio If They Come in the Morning, scritta da Jack Warsaw nel 1977. Jack Warsaw è un autore americano che però ha vissuto parecchio tempo in Gran Bretagna e in quella che al tempo era, cioè al tempo è tuttora l'Irlanda. E Jack Warsaw ha scritto questo pezzo nel 1977. A sua volta il titolo era ripreso da quello del libro di Angela Davis. Quindi vabbè, Davis, Betty Davis, non c'entra niente, però vabbè, riprendeva. Christy Moore cambia alcuni pezzi nelle strofe e tiene invece il ritornello, da cui deriva il titolo, come avrete capito. Infatti il ritornello dice "No time for love if they come in the morning", non c'è tempo per l'amore se loro arrivano la mattina. "No time to show tears or for fears in the morning", non c'è tempo per mostrare le lacrime o per la paura la mattina. "No time for goodbye, no time to ask why", non c'è tempo per dire addio, non c'è tempo per chiedersi perché. E, "and the sound of the siren is the cry of the morning", il suono delle sirene è il pianto del mattino. Il testo prosegue, ve lo leggo perché, almeno in parte, perché si capisce il tenore. Questo è il testo, appunto, cambiato da Christy Moore, l'originale, che non ci sono i riferimenti alla guerra di indipendenza irlandese, ma in realtà non è poi tanto diverso, ecco. Voi la chiamate legge, noi la chiamiamo apartheid, internamento, coscrizione, separazione e silenzio. È la legge che usano per far sì che io e voi siamo rinchiusi laddove pensano che noi dobbiamo stare. Essi si nascondono dietro barriere d'acciaio e vetri antiproiettile, mitragliatrici e spie. E osano affermare che quelli che hanno torto siamo noi, che subiamo gas lacrimogeni e torture. E il suono delle sirene è l'unico pianto che sentiamo al mattino. Così alcuni subiscono torture, marciscono nelle celle, diventano matti, scrivono lettere e muoiono. I limiti del dolore che sopportano sono dati dalla solitudine che le accompagna. I tribunali concedono loro giustizia, così come questa può essere concessa da delinquenti ben educati. Così ogni tanto combattono per la volontà di sopravvivere, ma il più delle volte vorrebbero essere morti. Ai loro tempi Sacco e Vanzetti, Connolly e Pierce furono prelevati e portati via. Oggi sono venuti per Newton e Seale, Bobby Sands e alcuni dei suoi amici. A Boston, Chicago, Saigon, Santiago, Varsavia e Belfast, e luoghi che non si sono mai sentiti nominare. Ma la lista sembra non avere mai fine. E via e via. Tra l'altro c'è anche un riferimento al vari modi, dice: "I ragazzi in blu sono solo alcuni dei poliziotti che ogni giorno fanno il loro giro, il dipartimento di investigazione criminale, gli uomini dei servizi segreti, informatori e spie svolgono i loro compiti allo stesso modo. Dietro di loro ci sono coloro che fanno fotografie, spiano i telefoni, i computer e i file, e c'è anche l'uomo che dirà loro quando venire a prenderti per portarti in cella". Insomma, direi anche di una certa attualità anche a Firenze e in tutta Italia in questi giorni, e quindi sentiamo "No Time for Love" di Christy Moore. They call it the law, we call it apartheid, internment, conscription, partition and silence. It's a law that they make to keep you and me where they think we belong. They hide behind steel and bulletproof glass, machine guns and spies. And they tell us who suffer the tear gas and the torture that we're in the wrong. No time for love if they come in the morning. No time to show tears or for fears in the morning. No time for goodbye, no time to ask why. And the sound of the sirens, the cry of the morning. They suffered the torture, they rotted in cells when crazy wrote letters and died. The limits of pain they endured, but the loneliness got them instead. And the courts gave them justice, as justice is given by well-mannered thugs. Sometimes they fought for the will to survive, but more times they just wished they were dead. No time for love if they come in the morning. No time to show tears if her fears in the morning. No time for goodbye, no time to ask why. And the sound of the sirens, the cry of the morning. They took away young Francis Hughes and his cousin Tom McElwee as well. They came for Patsy O'Hara and Bobby Sands and some of his friends. In Boston, Chicago, Saigon, San Diego, Warsaw and Belfast. And places that never make headlines, the list never ends. No time for love if they come in the morning. No time to show tears if her fears in the morning. No time for goodbye, no time to ask why. And the sound of the sirens, the cry of the morning. The boys in blue are only a few of the everyday cops on their beat. The CID branch men, the Blacks and the Gilmores do their jobs as well. Behind them, the men who tap phones, take photos, program computers and files. And the man who tells them when to come and take you to your cell. No time for love if they come in the morning. No time to show tears if her fears in the morning. No time for goodbye, no time to ask why. And the sound of the sirens, the cry of the morning. Sisters and brothers, the will to fight on. They say you can get used to a war, that doesn't mean that the war isn't on. The fish need the sea to survive, just like your people need you. And the death squad can only get through to them if first they can get through to you. They come in the morning. No time to show tears if her fears in the morning. No time for goodbye, no time to ask why. And the sound of the sirens, the cry of the morning. Yes, the sound of the sirens, the cry of the morning. Oh, the sound of the sirens, the cry of the morning. E dopo Christy Moore, la sua No Time for Love, passiamo a un altro pezzo che è di David Bowie e si intitola Valentine's Day, dall'album The Next Day del 2013, il penultimo album di David Bowie. E, secondo me è un pezzo bellissimo, anche se insomma non è dei suoi più famosi. Di quelli storici, classici, però diciamo che tra gli ultimi è uno di quelli che preferisco. È unito tra l'altro anche a un semplice ma perfetto video dove c'è un Bowie con i suoi due occhi eterocromi a cui si viene dato un giusto risalto, e un Bowie però invecchiato, ma insomma piuttosto impressionante. E no, chiaramente non si parla a caso di San Valentino, perché non potevamo aspettarci questo da Bowie, ma di quello che viene chiamato The Valentine's Day Massacre, il massacro di San Valentino. Massacro compiuto a Chicago il 14 febbraio, insomma il giorno di San Valentino appunto, del 1929. Il 29 sono successe un sacco di cose interessanti. Con il quale gli uomini di Al Capone sterminarono la banda di Bugs Moran. In totale furono 7 le persone assassinate, non tantissime insomma, rispetto agli standard a cui siamo abituati al giorno d'oggi, ma massacro soprattutto per il come furono uccise. Al Capone, detto il napoletano per le sue origini campane, e l'irlandese George Bugs detto Moran, si contendevano il controllo della città e del mercato degli alcolici, come i più si ricorderanno e sanno, insomma, non è una cosa, un aneddoto particolarmente strano e inedito. Con questa operazione chiaramente vinsero gli italiani, come potete intuire, Come data venne scelta il 14 febbraio perché Capone si trovava a Miami, convocato da un giudice federale per un interrogatorio, e quindi questa circostanza avrebbe costituito un alibi di ferro per Al Capone, come infatti successe. Gli uomini di Al Capone si presentarono dagli irlandesi travestiti da poliziotti. E gli irlandesi, colti di sorpresa, si fecero disarmare, vennero portati via, ma non furono portati in caserma come pensavano, ma in un garage dove vennero uccisi a colpi di mitragliatore. Almeno 50 colpi sparati per ogni corpo, così sono stati contati. Praticamente tutti morirono tranne un superstite, Frank Gusenberg, uno di loro che all'arrivo della polizia era ancora vivo, sebbene avesse molti proiettili in corpo e poi dopo morì. Alla domanda di chi gli avesse sparato rispose: nessuno mi ha sparato. Ironicamente, l'unico a salvarsi fu proprio il capo degli irlandesi, Bugs Moran, perché una delle vittime gli somigliava moltissimo e probabilmente fu uccisa al posto suo. Invece Bugs Moran fuggì e sparì per sempre. Ebbene, questa era la storia del massacro di San Valentino, e ora ce la sentiamo nelle sibilline parole di David Bowie. Yeah. Touch degli Head Girl, che c'entra? C'entra perché l'album da cui è tratto è St. Valentine's Day Massacre, appunto, di cui abbiamo appena parlato. È un album registrato nel 1981, quando il batterista dei Motorhead, Phil Taylor, si stava riprendendo da una ferita al collo. Quindi le due band, Motorhead e Girls' School, hanno deciso di collaborare, si sono messe insieme e hanno usato l'unico nome unico, Head Girl, la somma di entrambi i gruppi. È un album che contiene solo tre pezzi, ahimè, tra cui la Bomber, questo qui è questo che avete appena sentito, Please Don't Touch, e un altro pezzo chiamato Emergency. E non lo so, a me piace un sacco questo pezzo e questo disco, e secondo me Lemmy doveva suonare di più con le donne che gli facevano da controaltare al suo machismo, cioè, secondo me sarebbe stato molto meglio, ma vabbè. Proseguiamo e giusto per bilanciare la questione finiamo sugli Sparks. Gli Sparks ve l'ho già fatti sentire in precedenza e continuerò a farveli sentire perché è un gruppo che mi piace un sacco ed è troppo poco conosciuto in Italia. Hanno fatto un sacco di canzoni adatte a un San Valentino, direi dissacrante e rancoroso. C'era l'imbarazzo della scelta, francamente. C'era ad esempio Thanks But Not Thanks, o Falling In Love With Myself Again, oppure anche No More Mr. Nice Guys. Insomma, ce n'erano un bel po'. Alla fine ho scelto questa, che parla di una festa noiosissima, dove lui cerca disperatamente di trattenere un altro ospite e lo implora di non lasciarlo solo con lei. Lui gli risponde: beh, ma insomma, mi sembra una tipa a posto. E lui, terrorizzato, continua: sì, Hitler portava i tacchi e The Sad sapeva fare un buon tè. Questa è Don't Leave Me Alone With Her degli Sparks, da Propaganda del 1974. Thank you.

questi, dopo Buscaglione, che avrete, insomma, ormai spero che avrete apprezzato, questi erano i Misfits con Die Die Die, no, due volte sole, Die Die My Darling, dall'album Earth ID del 1983. E proseguendo su questo filone di un amore minaccioso, quando soprattutto è frustrante e poco libero, continuiamo con Bang Bang, My Baby Shut Me Down, un pezzo famosissimo direi. L'originale è di Cher, diventato peraltro super famoso con lei, ma a me piace la versione di Nancy Sinatra, versione diventata famosa tra l'altro perché contenuta nelle musiche di Kill Bill di Tarantino. È buffo come, se no altrimenti nessuno se n'era accorto, o in pochi perlomeno, e grazie a Tarantino tutti hanno scoperto questo pezzo di Nancy Sinatra. L'hanno rifatta Bang Bang, l'hanno rifatta praticamente tutti, pure in italiano tra l'altro. Io ho il 45 di Dalida e ne vado piuttosto fiera. Quindi questa è Nancy Sinatra, Bang Bang, My Baby Shut Me Down, dall'album How Does the Grab You del 1966. I was five and he was six. We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down. Seasons came and changed the time. When I grew up, I called him mine. He would always laugh and say, remember when we used to play? Bang, bang, I shot you down. Bang, bang, you hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, I used to shoot you down. Music played and people sang. Just for me, the church bells rang. Gone, I don't know why, and till this day sometimes I cry. He didn't even say goodbye, he didn't take the time to lie. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down. Questa era Nancy Sinatra, come vi dicevo, con Bang Bang, My Baby Shot Me Down. E mi viene in mente, per chi ancora non l'ha scoperto, di suggerirvi il blog di Non Una Di Meno, nonunadimeno.wordpress.com, dove si sta lanciando, discutendo, preparando e organizzando lo sciopero dell'8 marzo per la festa della donna, per un corteo che sia finalmente qualcosa di un tantino diverso da quello che abbiamo visto negli anni scorsi. Tra l'altro, Non Una Di Meno ha lanciato ieri una campagna Twitter di inquinamento dell'amore romantico, proprio per una visione un po' meno conformista del San Valentino a cui ci hanno abituato. E proseguiamo con Howlin' Wolf. Howlin' Wolf, e questo pezzo è un pezzo abbastanza famoso, piuttosto bello, sempre una visione piacevole e positiva dell'amore romantico. Il pezzo si intitola I Asked for Water, She Brought Me Gasoline. Ho chiesto acqua e lei mi ha portato benzina. E l'album è Moon in the Moonlight del 1959, Howlin' Wolf. Oh, asked her for water. Oh, she brought me gasoline. Mentre ci arrivano via apprezzamenti, segnali di apprezzamenti per questa puntata anti San Valentino, proseguiamo con, ci mancano pochi pezzi, siamo a quota meno 3, e proseguiamo con un pezzaccio dei Dresden Dolls. Dresden Dolls non potevano mancare nella puntata di San Valentino, come gli Sparks. Infatti i Dresden Dolls hanno diverse cose da dire su un amore poco romantico, non eteronormato e poco convenzionale, come dire. Il pezzo che ho scelto è, anche qui ne avrei potuti mettere un sacco, ad esempio Coin Operated Coin, che è la storia di Amanda Palmer, appunto, che invoca un uomo meccanico che va da gettoni, ma ne ho scelto un altro probabilmente meno conosciuto, che è Lonesome Organist Rapes Paige Turner, ovvero l'organista solitario stupra il girapagine, il giraspartiti, ecco, non so come si dice in italiano, colui o colei che gira gli spartiti. Dall'album Yes Virginia del 2006. È la storia questa qui di un organista appunto che supera il suo volta spartiti. Non è dato sapere, peraltro, grazie al meraviglioso inglese che non ha problemi di genere, la storia, cioè non si sa se questa storia riguarda uomini o donne, nel senso che non si sa il genere di nessuno dei due. Amanda Palmer ha raccontato in un'intervista che la vicenda è completamente inventata e intrisa di quello humor nero, potremmo dire, alla Dresden Dolls, che le definisce situazione alla Smith. Lei è un'altra grande fan degli Smith, è capace di dire con voce allegrette e melodie carine delle cose terrificanti. Gli hanno chiesto pure in un'intervista se lei, in quanto pianista da sempre, si sia mai trovata vittima di molestie dal proprio insegnante. Amanda Palmer ha risposto: No, in realtà casomai sono io che ho molestato chi mi insegnava e non il contrario. Questa è Amanda Palmer e questi sono i Dresden Dolls con Lonesome Organist, Rapes Page Turner. He told me that I knew just what to laugh at. Man. Questo sì, effettivamente era uno dei miei pezzi preferiti dei Dresden Dolls, di sempre, Lonesome Organist Rapes Page Turner. E, il prossimo pezzo, invece è di un altro gruppo. Non ci distacchiamo troppo dai Dresden Dolls perché sono The World Inferno Friendship Society. L'album è Just the Best Party del 2002. E gli Inferno Friendship Society sono un gruppo di Brooklyn, veramente figo secondo me, sono proprio belli e uniscono mille generi musicali in un gran buglione casinista, ma suonato come si deve. Ne fanno parte almeno 40 musicisti e i componenti cambiano spesso, non sono mai gli stessi. Io ad esempio li ho conosciuti perché ci suonava, li ho conosciuti, ne sono venuta a conoscenza, perché ci suonava Brian Viglione, che è appunto l'ottimo batterista del Dresden Dolls e nonché dei Violent Femmes. L'unico elemento costante negli anni è Jack Terrycloth, che è il cantante. Noto anche per fare dei grandi show sul palco. Organizzano i World Inferno Friendship Society un'annuale festa di Halloween che deve essere una cosa incredibile. Potete averne qualche indizio cercando i video che si trovano su YouTube. Il giro, per capirsi, è quello anarchico, squatter, steampunk e quant'altro newyorkese. Il pezzo che vi faccio sentire oggi è un piccolo capolavoro, soprattutto nel testo, che però è troppo lungo per tradurvelo, e lo dedico il cuore infranto che mi ha scritto lo Zumz, complimentandosi con la puntata, e siccome non mi succede mai, insomma, si merita di ricevere la dedica, e insomma, voglio esortare tutti i cuori infranti all'ascolto di reagire in maniera orgogliosa. E con attivismo punk e gli dedico questo pezzo che infatti si intitola Zen e The Art of Breaking Everything in This Room. Lo Zen è l'arte di spaccare tutto in questa stanza. Ecco, e dopo The World Inferno Friendship Society siamo quasi alla fine, ci manca solo un ultimo brano per voi e quindi prima di lasciarvi vi faccio un po' il riepilogo dell'agenda underground degli spazi liberati di Firenze con un po' quello che succede questa settimana. Come sempre la mia settimana parte dal mercoledì e quindi andiamo subito a domani, giovedì 16 febbraio, in Polveriera dalle 18 in poi, presentazione del libro Indios senza re di Orsetta Bellani, conversazioni con gli zapatisti su autonomia e resistenza di edizioni La Fiaccola, poi a seguire cena dalle 20, aperitivo e selezioni dal Wombat Radio, quindi non potete perderla. Sabato 18 invece due appuntamenti al cantiere Il K100, concerto OI con Bomber 80, Cosa Nostra, Riot Clan e a seguire Moga and the Barber DJ. Invece a Next Emerson dalle 22 il tango sognato presenta la milonga di carnevale in maschera, benefit per il presidio No Inch, no inceneritore contro l'allargamento dell'aeroporto. Quindi diverse cosette da fare, altre ce ne saremo probabilmente dimenticati. Se vi vengono in mente vi esorto ancora a mandarci i vostri appuntamenti dagli spazi liberati e non solo sulla nostra posta postawombat@insiberia.net, così ce li ricordiamo, ci disegniamo e poi li riproponiamo ai nostri microfoni. Questo direi che è tutto per questa puntata scoppiettante di San Valentino e San Valentino era ieri, va bene, d'accordo, però noi d'altra parte la trasmissione ce l'abbiamo il giorno dopo, che si doveva fare. E vi lascio con un pezzo dei No Means No che si intitola No Sex, dall'album Mama del 1982. È un pezzo brutale per mettere una pietra tombale definitiva su San Valentino. Vi saluto e appuntamento alla prossima settimana, mercoledì prossimo, sempre su Slick Chick, sempre su Wombat Radio. Ciao ciao. It's the Holy Trinity, Mom and Dad and little me. It's the Holy Trinity, yeah, Mom and Dad, Mom and Dad, Mommy. What you are is what you see. What you are is with a little bunny. You're somebody's fantasy. Like Mom and Dad, Mom and Dad.